Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lascio i miei figli sulle scale della scuola. Non mi baciano più da tempo di fronte ai loro compagni prima di entrare. Io, invece, nella mia testa non ho mai smesso di avere quel loro bacio. Controllo giacca e cravatta e risalgo in auto verso la mia riunione. Non so ancora che nulla sarà più come prima. Ci sono puntate particolari come questa. Sono particolari non tanto per il contenuto, anche per il contenuto. Lo sono più che altro perché, come avete sentito, o meglio, come non avete sentito, non è presente l'autore della storia di oggi. Non ha voluto partecipare e noi abbiamo rispettato la sua scelta, chiedendogli però di poter mandare in onda la sua storia. La sua storia è una storia che parla di punti d'arrivo e di ripartenza, cioè parla di quei momenti che, volenti o nolenti, coscienti oppure no, cambiano definitivamente la nostra vita. Sono quei momenti da cui si parte, a cui si arriva, per cui quando si torna indietro con la memoria ci si ricorda che fino a quel giorno, fino a quell'ora, fino a quel secondo probabilmente, la nostra vita era in un modo e da lì in avanti è diventata completamente diversa. Parla di questo la storia di oggi, del protagonista di oggi che chiameremo Emilio. Giusto, Margherita? Abbiamo deciso Emilio. Ma parla anche di altro. Parla d'amore nella maniera, devo dire, anche più comune, che è l'amore extra. L'amore, in questo caso, extra coniugale, l'amore extra coppia. Cioè, ci sono due che stanno insieme, però uno dei due ha un'altra storia. Io vorrei veramente chiedervi uno sforzo in questo venerdì d'inizio marzo. Ed è di lasciare a casa il giudizio, di lasciare a casa ogni ipocrisia nel provare a chiamare questo numero 800240024 e raccontarmi se siete con una persona in questo momento, uomo o donna, con cui state tradendo un'altra persona, di raccontarmi dove siete e cosa state facendo. 800240024. Abbiamo 3 minuti per farlo, non abbiamo tantissimo tempo a disposizione, però visto che la storia di... cosa avete detto? Emilio. Visto che la storia di Emilio è una storia che parla di un momento, dell'attimo dopo, cioè di quello che causa quello che state vivendo in questo momento, se state in qualche modo tradendo la vostra compagna, il vostro compagno, ripeto, non c'è alcun giudizio in tutto questo, è semplicemente è una sorta di fotografia di dove siete adesso e di, vi auguro di no, dove potreste arrivare attraverso la storia di Emilio, che appunto rappresenta quel, come li chiamano? Tipping points, li chiamano così, forse non c'entra niente, forse non c'entra. Ho detto una roba che non so neanche io, da come mi guardi Margherita sembra una roba che proprio non ho idea di cosa ho detto, però momenti salienti della vostra vita che cambiano radicalmente la vostra vita. Se siete in automobile, se siete in una stanza d'albergo, difficile perché non è che ci siano proprio delle radio nelle stanze d'albergo, è molto più facile che essendo le 4 del pomeriggio di un venerdì, di un bel venerdì di inizio marzo, che quasi sa già di primavera, magari voi abbiate raccontato una scusa a vostro marito, a vostra moglie o a vostro fidanzato, alla vostra fidanzata, e siate in automobile con un'altra persona che non ha il nome né del vostro fidanzato né della vostra fidanzata. Se avete voglia di partecipare, e partecipare vuol dire semplicemente raccontarci brevemente che cosa state provando, dove state andando, con chi siete, chiaramente vi chiameremo tutti Emilio ed Emilia oggi, non faremo nomi e non diremo luoghi, insomma sarà in mano a voi. Se avete voglia di raccontarlo, vi ripeto, il numero è 800240024. C'è anche un sms che è il 349 238 6666. Più in generale oggi parliamo comunque di quei punti lì, dei punti in cui la vita a un certo punto prende una piega diversa, inaspettata. Andrea mi scrive, ad esempio, la mia vita è cambiata quando l'ho conosciuta, per caso a una festa. Si parla sempre d'amore o si parla d'altro? Romina, quando lasciai mio marito e quando siamo tornati insieme dopo 3 anni, più innamorati che mai. Voilà, Romina. Oppure Kim, dopo che è morto mio papà e le tante domande che sono rimaste senza risposta. Sono tanti i momenti in cui a un certo punto la nostra vita prende una piega radicalmente diversa. E sono anche molti i momenti in cui noi stiamo arrivando a quel punto e magari non ce ne accorgiamo. 800240024, solo alle persone che sono in questo momento con una persona che non è loro marito, non è la loro moglie e non è nemmeno uno dei loro fidanzati. È quella cosa lì, si chiama tradimento, possiamo nominarla, abbiamo il coraggio di farlo. È venerdì 1 marzo del 2013, sono le 16:11 minuti, questa è Radio 24 e questa storia qua è la storia di Emilio. Quella giornata era cominciata esattamente come tutte le altre. La sveglia che mi strappa dal sonno, mi stiracchio. Do il buongiorno a mia moglie e vado a svegliare i bambini. I cristalli liquidi della sveglia si incontrano sullo sfondo arancione per emettere la loro sentenza quotidiana. È il 16 di aprile del 2012. La colazione è allegra, come al solito. Mi ricordo la luce che entra dalla grande finestra per farci coraggio nel cominciare le nostre fatiche quotidiane. I bambini litigano come al solito, ma poi diligenti si preparano e saliamo in macchina. La scuola ci attende, assopita come ogni mattina, in attesa di essere svegliata dall'esercito di piccoli uomini che la maltratteranno sino al pomeriggio. Li lascio sulle scale. Non mi baciano più da tempo, di fronte ai loro compagni, prima di entrare. Io invece nella mia testa non ho mai smesso di avere quel bacio da loro. Che sia diventato un sorriso, una smorfia o anche un semplice ciao, per me si trasforma sempre in un bacio. Controllo giacca e cravatta e risalgo in auto verso la mia riunione. E ancora non so che nulla sarà più come prima. I miei 42 anni, infatti, sono convinto che mi autorizzino a fare scelte che riguardano solo la mia persona. E dico questo perché da 4 mesi Sara è entrata come un tornado nella mia vita. Solo che mia moglie non si chiama così. 3 mesi fa ci siamo amati, ci siamo avvolti come due serpenti. Spirali di passione ci tenevano legati l'uno all'altro. Da un hotel al 30° piano di Chicago abbiamo creduto di dominare tutto. Sentimenti, passioni, gioie e dolori. Ma non so ancora che nulla sarà più come prima. La riunione scorre via veloce come sempre, sino a quando il mio cellulare annuncia che le nuvole nere si stanno addensando all'orizzonte. Alla prima parola di mia moglie, al telefono, capisco tutto. Nulla sarà più come prima. Percorro i 100 chilometri di autostrada che mi separano da casa come sospeso. Non ricordo un metro d'asfalto di quel viaggio, un cartello, un albero, un'auto. Nella mia testa non c'è più nulla di tutto quello che separa la riunione dalle lacrime di mia moglie al telefono. Ha scoperto tutto. Me ne vado da casa, lascio i miei figli e il mio cuore con loro. Da lì in poi ci sono case diverse e provvisorie, discussioni, pianti, avvocati e dolore. Dolore fisico, insopportabile, indescrivibile. Per la prima volta nella mia vita ho percepito chiaramente le inevitabili conseguenze delle mie azioni. Da quel giorno la colazione è diversa, la giornata è diversa. Ora non sono più così triste, il dolore ha lasciato spazi che riempio con altro, ma nulla è più come prima. No, no. Ci sono molte variabili sul perché ci piacciono le storie. Alcune storie ci piacciono perché ci fanno sorridere, altre perché riconosciamo una parte di noi in qualche dettaglio, altre per come sono costruite, per la suspense che riescono a creare. Alcune ci piacciono perché ci raccontano dei mondi lontani, altre invece perché le conosciamo molto bene, come se fossimo dentro. E poi ci sono storie come questa. Storie che ci piacciono perché sentiamo un brivido nella schiena, storie che ci fanno paura, storie terribilmente normali e possibili, storie vicine che potrebbero succedere anche a noi, storie che capitano all'improvviso e nulla sarà più come prima. Ecco, questa frase ritorna come se fosse un mantra nella storia di Emilio. Nulla sarà più come prima. La sua storia sembra definitiva, sembra una storia che racchiude in sé tutti i drammi. Io però vorrei provare ad allargare il cerchio, cioè dalla storia singola di una persona, di un uomo, alla storia, alla grande storia, quella di tutti, quella che si legge sui libri, la storia, quella con la S grande, no? La maiuscola. E di come spesso le storie degli uomini si nutrono e sono strettamente intrecciate alla storia, quella grossa. E la storia che voglio raccontarvi oggi è quella di un uomo che si chiama Danny. Vive a New York e ha una 50 anni al tempo dei fatti. Come la storia di Emilio, anche la sua potrebbe avere come titolo una data, ma non anticipiamo nulla. Come Emilio, Danny ha moglie e 2 figli. E come Emilio, anche Danny, da qualche mese, frequenta un'altra donna. Saltiamo qualsiasi approfondimento sulle motivazioni. Frequenta un'altra donna e tanto basta. La sera prima della nostra storia è un lunedì sera come tanti. Danny ha iniziato la settimana al lavoro, come sempre. La sua sveglia anche quel giorno è suonata alle 6:30, come sempre. E alle 7:30 è entrato in ufficio, come fa tutti i giorni. Solo che quella sera lì, quel lunedì sera, sua moglie non c'è. È andata a trovare il figlio all'università, in un'altra città. E allora Danny ne approfitta e chiama Amanda, la sua amante. La invita a cena. Passa una bella serata con lei. A fine serata Danny chiede ad Amanda di passare anche la notte con lui in un albergo. Alla risposta affermativa Danny festeggia comprando un paio di bottiglie di Crystal. La notte in albergo è splendida, se la godono, le bollicine del Crystal annebbiano i sensi di colpa e tutti i pensieri legati alla moglie. E la mattina dopo, il martedì mattina, quando l'orologio biologico lo sveglia, come tutte le mattine alle 6:30, Danny fa una cosa che di solito non fa. Si gira dall'altra parte e si rimette a dormire. Si risveglia più tardi, verso le 9:30, quando sente la suoneria del suo cellulare che squilla. È sua moglie. Quando lui risponde, lei si mette a piangere dalla gioia, gli chiede dov'è e se sta bene. E le risponde, certo che sto bene tesoro, sono in ufficio. A questo punto, dall'altra parte del telefono c'è una lunghissima pausa. E poi la moglie gli dice, accendi la televisione, figlio di puttana. E poi, dopo un'altra pausa, spero che ne sia valsa la pena, e aggancia. Danny ovviamente non capisce, sa solo di essere stato beccato nel mezzo di una bugia. Amanda, intanto l'amante, nel frattempo si è svegliata. Danny a questo punto non la sopporta più, non sopporta più la sua presenza. Le chiede di accendere la TV e si infila in bagno. Mentre si lava, cercando di decifrare come e cosa fare, sente dalla stanza Amanda che urla, sconvolta. Lui è ancora più innervosito da questa donna che non ha capito nulla della telefonata e adesso si permette anche di fare casino. Finisce di lavarsi, è ancora bagnato, torna in camera. Spruzza gocce dappertutto sulla moquette dell'albergo. Ha deciso che darà il peggio di sé con Amanda e farà rimpiangere di essere lì. Quello non è un giorno qualunque per lui. Niente sarà più come prima per Danny. Solo quel giorno lì non è un giorno qualunque per nessuno. È martedì 11 settembre del 2001 e siamo a New York. Danny è uno di quelli che lavorano tutti i giorni dentro alle Torri Gemelle e in televisione si accorge di che cosa sta succedendo. Niente sarà più come prima per il resto dell'umanità. La sua prima reazione è un conato. Scappa in bagno, vomita. Quando si riprende, torna in camera. Amanda è già andata via, non c'è più. Lui si incolla davanti alla TV e lo assalgono tutti i pensieri possibili. Compone il numero del suo ufficio, vuole sentire i suoi colleghi. Poi si sente uno stupido, mette giù. Si veste per lasciare l'albergo, paga in contanti. Ha paura che qualcuno potrebbe riconoscerlo e accusarlo di non sa nemmeno lui cosa. È convinto di essere responsabile. Poi invece si sente più stupido ancora. Cerca di avvicinarsi correndo al punto dell'impatto. Le strade sono sbarrate, non lo fanno passare. Corre fino a quando sente i polmoni bruciare. A quel punto si siede. È solo, sui gradini d'entrata di un edificio. Sente l'odore acre nell'aria e pensa che nulla sarà più come prima. Francesca scrive, la vita non è stata più come prima quando presi quell'aereo per Orlando, in Florida, per trascorrere un anno lontano da casa. Di solito accade qualcosa perché si capisca che nulla sarà più come prima. Delle volte è un avvenimento grande, no? Ha a che fare appunto con la vita o con la morte. Delle volte invece è un gesto semplice. Luca mi scrive, nulla è stato più come prima quando sono riuscito ad afferrare il manico della scopa di mia madre con lei che urlava «Molla, molla!». Avevo 13 anni ed ero diventato un uomo e più nulla nel bene e nel male è stato come prima. 349-238-6666. Invece a proposito della richiesta al telefono, se siete col vostro amante o se ci state andando, se state organizzando, chiamate l'800240024. Elisa scrive, scusa, ma se fossi con lui non starei a sentire te alla radio. E in parte hai ragione Elisa, e in parte no, perché da Roma c'è un'Emilia, abbiamo deciso di chiamarla, che ci ha chiamato. Pronto Emilia? Ciao, pronto. Ciao, come stai camuffando la voce? No. No. Dove ti trovi esattamente? Abbiamo deciso Emilia, va bene, giusto? Sì, va bene, come no. Sono su un'autostrada X. Sei in autostrada X per andare, non posso chiederti dove, per andare a fare cosa? Per andare, no, sto andando, diciamo, versione ufficiale dai miei genitori, in montagna, e invece sto andando da un'altra parte, da un'altra persona, però ascoltando le storie di prima mi sono un attimo, diciamo, confortata, perché sono un po' delle tragedie. Io spero che questa storia qua, invece, che sto vivendo, finisca in un modo o in un altro, una scelta. Ecco, io non è che vorrei passare la vita così, questo volevo dire. Ok, no, ho capito, insomma, non vuoi portarla avanti, vorresti a un certo punto che accada qualcosa. Ma vorresti che accadesse qualcosa o vuoi farlo accadere tu? Beh, siamo sempre noi alla fine che scegliamo, quindi dovrò decidere qualcosa io. Ovviamente non voglio che succeda qualcosa per sbaglio, tra virgolette, assolutamente no. Tu sei sposata o fidanzata? Fidanzata. Sei fidanzata, da tanto? Beh, sì, abbastanza. Ma 7 anni, 8 anni. Ok, della serie fidanzata che convivi? Esatto. Ok, e invece quest'altra persona, rimani vaga quanto riesci, insomma, quest'altra persona la conosci da quanto? Da qualche mese. Insomma, da 5-6 mesi più o meno. È un po' un casino così, veramente non capiamo dove riusciamo ad arrivare, né io né te. Però la conosci da qualche mese e adesso quindi stai andando in teoria dai tuoi genitori e invece stai andando dove vedete, a casa sua, in un albergo? Sì, dove vive lui praticamente, sì. Ok, lui invece è tranquillo? Sì, lui è single, tranquillo. Posso chiederti quanti anni hai? 30. Ok, e posso chiederti anche che cos'è che ancora non ti ha fatto... Cioè, l'idea, perdonami Emilia, l'idea è di chiuderla la storia che hai, giusto? Questo che devo capire, cioè fondamentalmente il fatto che sia successa questa cosa, se ovviamente mette dei dubbi, però secondo me spesso facciamo delle cose anche per altri motivi, cioè non necessariamente perché non ci va bene la storia, ma perché magari la colleghiamo ad altri. Sento veramente le unghie sugli specchi, Emilia, però dimmi come almeno come vi siete conosciuti, voi due, inteso tu e il tuo amante, diciamo così. In un'attività professionale. Sportiva. No, sportiva. No. Ok, ok. Quindi non al lavoro? No. Era no. Amico di amici? No. Che cos'è che ha lui che l'altro... Sono termini orribili, lo so, lui e l'altro, però che cos'ha lui che il tuo compagno non ha? È un casino, sta telefonata è un delirio, non ce la facciamo ad arrivare alla fine. Dimmi una cosa, dimmi perché ti piace, dai, è più facile. Beh, secondo me è un po' una fuga dalla cosa, cioè una cosa molto banale, secondo me è un po' quello che, diciamo, non l'impegno per una vita intera, ma quello che magari invece ti può permettere di sentirti in modo diverso per un po', però non dura, cioè nel senso io... Ah, ma quindi hai tanto... già deciso che questa cosa non no, è una cosa che... No, non ho deciso niente ancora, però... che non hai deciso niente, parliamo, questo l'avevamo capito. Queste cose. Ah, ok. Quante volte ti fermi a riflettere su questa questione? La racconti... qualcuno la sa? Qualcuno la sa? Pochissime persone. E cosa dicono? Ma per fortuna ho... Non c'è giudizio. Che no, per fortuna no, pensano, cioè fondamentalmente mi dicono quello che penso sia giusto, cioè viviti la cosa in modo da poter trovare la strada giusta. Certo, per te, le amiche. Senti, dimmi beh, ma c'hanno pure ragione, sono amiche. Dimmi i tuoi genitori se sono allertati. Ah, ma anche tu avevi detto che non ci sarebbe stato giudizio comunque. No, infatti non c'è, da parte mia non c'è giudizio. Amiche. No, beh, ma nel senso che trovo che sia giusto che le amiche appoggino, così come gli amici. In linea di massima, poi magari c'è qualcuno che bastona. Dimmi invece se i tuoi genitori sono allertati, se no mi preoccupo. No? No? No. Ma scusami, non potrebbe esserci una telefonata tipo sabato? C'è Emilia? No. No, guarda, non è qui. No, come no, non è lì? No. Mi ha detto no, che veniva lì. Ah, guarda, no, qui non no, ave... no, ci sentiamo. No, non c'è telefono lì, quindi... Come non c'è? Solo il cellulare mio. Ah, ok. Perfetto. E scusami, poi ti lascio andare. Quante volte pensi che vi sentirete in questo fine settimana? Perché penso poche, perché anche lui c'ha un impegno, quindi non è neanche lui a casa, quindi va bene. È fuori, quindi sì. Guarda, io ti ringrazio. Dovrebbe andare tutto bene. Ti ringrazio per aver tutto bene. Ti ringrazio per aver avuto la voglia e anche un po' il coraggio per fare questa telefonata. Prego. Buon fine settimana. Grazie. Ciao, in bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie. Voi siete qui. Tradimento. Sostantivo maschile. Il venir meno alla fede data o a un impegno solennemente. Azione delittuosa o comunque dannosa compiuta ai danni di qualcuno, profittando della sua buona fede e della sua fiducia. Etimo derivato di tradire. Data inizio secolo XIV. Come potevamo ben immaginare, non c'è foto di Emilio che non ha voluto intervenire e di conseguenza né in voce né tantomeno con una fotografia, né con la sua immagine, né con la sua faccia. È voluta invece intervenire Emilia, che io continuo a ringraziare e soprattutto... Cioè, posso capire che io non decido per voi che siete all'ascolto, perché io decido solo per me e voi decidete per voi. Però non leggerò i vostri sms, quelli giudicanti, perché avevo in apertura chiesto di sospendere il giudizio, di farlo per 45 minuti, non di più. E però evidentemente il tradimento è una di quelle cose che segna un prima e un dopo nella vita delle persone e segna un prima e un dopo nel modo di vedere la vita, nella morale, non lo so. 349-238-6666. Un'Emilia mi scrive: 2 giugno del 1994, notte fonda. Mio marito, appena sposato, muore in bagno per un'overdose di eroina. Non ne sapevo niente, non mi era accorta di niente. Ostracismo sociale e morte, niente è stato più come prima, per un tempo infinito. Ringrazio Emilia per questo messaggio, che non ha a che fare col tradimento, come avrete capito, ma ha a che fare invece, appunto, in questo caso con la morte. Un compagno per 5 anni. Io da sempre randagio e raramente monogamo lo divento e lui mi rende tale per la vita. Poi mi ha tradito e mi ha lasciato. Ed allora per me nulla è come prima. Firmato un Emilio a caso. C'era un altro messaggio di Antonella, che appunto invece è un messaggio che racconta di come spesso la vita non è più come prima, con gesti che appaiono insignificanti. Dice: ce ne sono due, a dire il vero, anche se a ben vedere sono collegati. E quello che è strano è che anche se si trattò di semplici gesti, come mille altri, ne potevo fare anche se si trattò di semplici gesti come mille altri ne potevo fare nella routine quotidiana, me li ricordo ancora oggi, a distanza di anni, nei minimi dettagli. Uno è girare la manopola un po' a casaccio per sintonizzare la radio sul mio vecchio hi-fi, e l'altro è appoggiare il cursore del mouse sull'avatar di uno che chiedeva informazioni su un allora nuovissimo modello di cellulare. Queste sono due piccole cose che lei ha fatto nella sua vita. Uno era evidentemente appunto cercare una stazione radio, e l'altra era rispondere a un tizio che chiedeva probabilmente informazioni. Lei lavorava forse per un'azienda di telefonia, o forse vendeva un telefono cellulare, ed evidentemente questi due gesti insignificanti hanno fatto sì che lei entrasse in contatto con due persone che lavorava alla radio, l'altro voleva comprare un cellulare, che le hanno cambiato in qualche modo la vita. 349-238-6666. Viola dice: a volte non è un giorno speciale, non è un avvenimento speciale, ma il giorno lo diventa perché è la somma di quelli che l'hanno preceduto. Ti svegli e senti come un serpente di avere cambiato pelle, e nulla è più come prima. Qualcuno scrive anche che l'Emilia che ha telefonato, tutti chiaramente sperano che non l'abbia, sperano alcuni sì, che il suo fidanzato l'abbia sentita, o vabbè, altri dicono ci sono anche i podcast. A questo proposito, immagino che se l'ha telefonato abbia o la certezza che questa roba non accada, o forse magari invece una parte di lei vuole che accada. Però questa è veramente la psicologia del supermercato, quindi non mi ci addentrerei. Vi ricordo invece che se volete ascoltare questa e tutte le puntate di questo programma che sono state mandate in onda, ci sono anche quelle dell'anno scorso, no? Nell'archivio c'è anche Voi siete qui dell'anno scorso. Quindi da settembre del 2011, ma anche da settembre del 2012, ma anche da settembre del 2011, potete riascoltare tutte le puntate in onda su questa radio, in streaming, online, sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, oppure se invece volete fare più semplicemente abbonandovi al podcast su iTunes di Voi siete qui. Lì ci sono solo le ultime 5 puntate scaricabili. Visto che qualcuno scrive anche perché si fa tutta questa fatica e non si trova il coraggio per lasciare una persona, io ho trovato un libro di cui forse avevo già parlato in trasmissione, che racconta La notte prima è un romanzo che dura una notte e racconta che cosa succede nella testa del protagonista che dopo 6 anni di convivenza con la propria moglie, da 10 la conosce e 2 figli, ha deciso di lasciarla. Ha deciso di lasciarla, ma ha deciso che non le dirà nulla, che dormirà con lei, che arriverà la mattina, lei uscirà, andrà a lavorare, i figli usciranno e lui farà lo stesso, lasciando un biglietto che dice così: cara Susan, ho lasciato questa casa e non tornerò. Mi dispiace, ma non credo che possiamo renderci felici a vicenda. Te ne parlerò domani, Jay. Questo libro si chiama Nell'intimità di Hanif Qureshi e inizia esattamente così. È la notte più triste, perché sto per andare via e non tornerò indietro. Domani mattina, quando la donna con cui ho vissuto per 6 anni sarà andata al lavoro in bicicletta e i nostri figli saranno stati accompagnati al parco a giocare con la palla, infilerò alcune cose in una valigia. Scivolerò fuori di casa sperando che nessuno mi veda e prenderò la metropolitana fino all'appartamento di Victor. Lì, per un periodo di tempo indefinito, dormirò sul pavimento nella minuscola stanza che lui gentilmente mi ha messo a disposizione accanto alla cucina. Ogni mattina solleverò il sottile materasso a una piazza e lo rimetterò sullo stenditoio. Riporrò il piumino ammuffito in una scatola. Sistemerò i cuscini sul divano. No, non ritornerò a questa vita. Non posso. Forse dovrei lasciare un biglietto per comunicare questa decisione. Cara Susan, non ritornerò. Forse è meglio che telefoni domani pomeriggio. O potrei farmi vivo nel fine settimana. I dettagli non li ho ancora decisi. Quasi sicuramente non le dirò le mie intenzioni stasera o stanotte. Rimanderò. Perché? Perché le parole sono azioni e fanno accadere le cose. Una volta che sono uscite dalla bocca, non puoi più farle rientrare. Qualcosa di irrevocabile sarà accaduto e io sono impaurito e insicuro. Di fatto in questo momento sto tremando. Ho tremato per tutto il pomeriggio, per tutto il giorno. Questa sera, quindi, potrebbe essere la nostra ultima sera da famiglia innocente, integra, ideale. La mia ultima notte con una donna che conosco da 10 anni, una donna di cui so quasi tutto e di cui non voglio sapere di più. Presto saremo come sconosciuti, anzi no, non sarà mai possibile. Fare del male a qualcuno è un gesto di riluttante intimità. Rooting by its heart. And ambitions are low, and resentment writes high, but emotions won't grow, and we're changing our ways, taking different roads. Love, love will tear us apart again. Why is the bedroom so cold? Strana puntata, mi scrive qualcuno sul profilo Facebook del programma che voi siete qui, Radio 24. Altri ancora mi scrivono: mia moglie si chiama Emilia, mi devo preoccupare? E direi proprio di no. E poi invece c'è qualcuno che mi ha scritto: Emilia, dai Matteo, era una tua collaboratrice che si è prestata a fare la parte, era Margherita, vero? Beccato. Adesso vi dimostro che non era Margherita, facendosi sentire per la prima volta la voce di Margherita. Pronto Margherita? Pronto? Ciao, sei tu, di che sei Margherita Ina? Sono Margherita Ina. Ok, che semplicemente è nata da un'altra parte e le ho fatte prendere il telefono. Mi dici per piacere, Margherita, sto andando in montagna dai miei genitori, ma in realtà vado dal mio amante. Sto andando in montagna dai miei genitori, ma in realtà vado dal mio amante. E io non dico la R. Grazie, grazie Margherita Ina, la ringrazio per la prima volta in diretta. Non era chiaramente lei, giusto per fugare qualsiasi dubbio, perché si dice, no, che quello che succede in TV non è vero e invece quello che succede in radio è vero. Ecco, non è proprio sempre così. Delle volte anche quello che succede in radio non è propriamente... Ma non entriamo in questo merito. Ringrazio anche chi mi scrive invece: noi siamo insieme, ci amiamo e abbiamo 2 amanti comuni e lo facciamo insieme, senza ipocrisie. Voilà, grazie a te, grazie a Margherita Ina che si è pure prestata a chiamare al telefono, grazie a Paolino Corleoni e grazie a Tiziano Bonini, anche se adesso non è qui con noi. Grazie soprattutto a Emilio, chiunque tu sia, dovunque tu sia e qualsiasi sia la tua fine. Anche lui è diventato un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Ronnie di Treviso. La storia di lunedì è la mia e parla delle coincidenze che possono cambiarci la vita. Questa è la mia storia ed io sono qui.